Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe, traduzione di Elio Vittorini. Augustus mi riferì questo racconto solo per sommi capi durante il tempo che restammo vicini alla cassa. Fu in seguito che egli entrò in tutti i particolari. Temeva che la sua assenza venisse scoperta. E io, d'altra parte, bruciavo per la furia di lasciare il detestato luogo della mia prigionia. Decidemmo dunque di salire, senza più mettere tempo in mezzo, sul falso ponte, dove io mi sarei fermato mentre lui sarebbe andato in ricognizione. L'idea di abbandonare Tiger nella cassa era insopportabile ad entrambi. E però, che potevamo fare d'altro? La bestia pareva perfettamente calma, e per quanto applicassimo l'orecchio alla cassa non riuscimmo a sentirne il respiro. Convinto che fosse morto, aprii la porta. Lo trovammo coricato in tutta la sua lunghezza, come immerso in un profondo torpore, ma vivo ancora. Non avevamo tempo da perdere, eppure io non sapevo rassegnarmi ad abbandonare quell'animale che per due volte era stato lo strumento della mia salvezza, senza tentare neanche di soccorrerlo. Sicché ce lo tirammo dietro nonostante tutte le difficoltà e la fatica che ci costava. E fu Augustus, date le mie condizioni di estrema debolezza fisica, che dovette per la maggior parte del tempo arrampicarsi a scalare gli ostacoli con l'enorme bestia sulle braccia. Riusciti finalmente a raggiungere il buco, Augustus passò per primo, poi io vi spinsi Tiger. Tutto era andato così per il meglio e noi non mancammo di ringraziare Iddio per averci fatto scampare al pericolo incombente. Fu quindi convenuto che, per il momento, mi sarei fermato di qua dall'apertura attraverso la quale il mio compagno poteva facilmente passarmi una parte della sua provvista giornaliera, mentre io avevo il vantaggio di respirare un'aria, relativamente a quella della cala, abbastanza pura. A chiarire ora certi passi di questo racconto, nei quali si è tanto parlato dello stivaggio del brigantino e che possono sembrare oscuri a chi dei miei lettori ha forse visto uno stivaggio ordinato e regolare, debbo avvertire che il modo in cui questa importantissima operazione era stata fatta a bordo del Grampus tornava tutto a disdoro di Capitan Barnard, il quale non era per nulla quel marinaio diligente ed esperto che avrebbe richiesto la rischiosa natura del servizio cui si trovava addetto. Uno stivaggio vero e proprio deve farsi con la massima cura, dapoiché i più disastrosi incidenti, secondo quanto io stesso ho potuto sperimentare, derivano spesso dalla negligenza dei marinai in proposito. Tanto è vero che le navi costiere, per la furia e il disordine del caricare e lo scaricare, che rendono uno stivaggio difettoso, sono più delle altre soggette al naufragio. L'essenziale è di non lasciare possibilità di muoversi sia al carico che alla zavorra, neanche sotto i più violenti colpi di rullio. E a tal uopo bisogna stare bene attenti non solo al carico per se stesso, ma anche alla natura di esso e alla sua quantità, se parziale o completo, rispetto alla capacità della stiva. Nella maggior parte dei casi lo stivaggio viene effettuato a mezzo di un compressore. Così, per un carico di tabacco o di farina, il tutto viene compresso a tal punto, nella cala della nave, che poi i barili o fusti o sacchi che siano, al momento dello scarico, vengono tirati fuori assolutamente schiacciati e vogliono del tempo prima di riprendere la loro forma. Ma solo quelli che hanno provato la violenza di qualche raffica come si deve, o meglio ancora, quelli che sanno cosa significa il rullio di una nave nella calma improvvisa che può succedere a una tempesta, riescono a farsi un'idea delle scosse terribili che per la forza tremenda dei colpi ricevono le merci stipate. Una cala colma di grano all'uscita dal porto arriverà a destinazione solo per tre quarti piena, e ciò nonostante che il carico, misurato a staio dal consegnatario, sorpasserà non di poco, per l'inturgidimento del grano, la quantità consegnata. Il fenomeno viene causato dal fatto che il grano si assesta durante il viaggio e tanto più quanto più la nave ha avuto mare grosso. Se il grano non è stato compresso ben bene, per quanto possa essere tenuto fermo da tavole e puntelli, sarà sempre, durante una lunga traversata, soggetto a spostarsi talmente che può dar luogo alle più gravi catastrofi, per prevenire le quali occorrerà, prima di lasciare il porto, cercare con tutti i mezzi di assicurare il carico più che possibile. E vi sono a tal uopo diversi metodi, fra i quali citerò quello di piantare diversi cunei fra mezzo al grano. Lo stivaggio a bordo del Grampus, se stivaggio si può chiamare un ammassamento caotico di botti da olio e di attrezzi di bordo, era fatto con molta grossolanità. Le baleniere in genere sono fornite di serbatoi di ferro per l'olio e io non ho potuto mai sapere perché il Grampus non ne avesse. Ho già parlato della posizione dei materiali nella cala. Nel falso ponte, come ho avuto modo di far sapere, c'era abbastanza spazio da lasciar passare un uomo tra la sommità della barriera di botti e il ponte superiore. Un altro grande spazio era rimasto vuoto sotto al boccaporto di centro e diversi ancora, di non indifferente ampiezza, erano stati lasciati qua e là per la stiva. Così, vicino all'apertura praticata da Augustus nella paratia del castello di Prua, c'era posto sufficiente per una botte. E fu là, difatti, che io ebbi modo, per il momento, di installarmi a tutto mio agio. Intanto che il mio amico riprendeva posto nella sua cuccetta e si rimetteva le manette e la corda, s'era fatto giorno. E la scampammo bella, a dire il vero, poiché, non appena egli si fu sbrigato, discese il secondo in compagnia del cuoco e di Dirk Peters. Per un po' essi parlarono della nave che doveva giungere dal Capoverde e sembravano impazientissimi di vederla giungere. Poi il cuoco si avvicinò alla cuccetta di Augustus e si sedette dal lato del capezzale. Io potevo vedere e sentire tutto dal mio nascondiglio, poiché non avevamo fatto in tempo di rimettere a posto il pezzo tagliato e stavo sulle spine per il timore che il negro non finisse per appoggiarsi al camiciotto che dissimulava l'apertura, nel qual caso tutto sarebbe stato scoperto e io, Augustus, senza dubbio, ci avremmo rimesso la vita. La nostra buona avventura, ad ogni modo, ebbe il sopravvento e per quanto il cuoco venisse a contatto del camiciotto ad ogni colpo di rullio, non vi si appoggiò mai tanto da provocare la scoperta. Bisogna anche dire che la fodera della giacca era stata assicurata con cura alla parete, di modo che l'indumento non poteva lasciar vedere nulla durante le oscillazioni. Quanto a Tiger, esso se ne stava ai piedi della cuccetta e pareva avesse recuperato in una certa misura la sua energia, giacché potevo vederlo di tratto in tratto aprire gli occhi e tirare un lungo respiro. Egli si mise a parlare con Augustus in modo perfettamente amichevole e noi potemmo constatare che la sua ubriachezza, di quando gli altri due si trovavano anch'essi là, era in gran parte finta. A tutte le domande del mio amico rispose senza riserva alcuna. Inoltre, gli disse d'esser sicuro che suo padre si fosse salvato per il fatto che il giorno in cui lo si era abbandonato alla deriva s'erano avvistate non meno di 5 vele prima del tramonto. E nel dir queste cose adoperava un linguaggio così confortante che io ne provai non meno sorpresa che piacere. A dire il vero, cominciai a nutrire la speranza che per mezzo di lui avremmo potuto riprendere possesso del brigantino. E questa mia idea partecipai ad Augustus non appena ne ebbi l'occasione. Egli giudicò, convenendo meco, possibile la cosa, ma insistette sulla necessità di usare la più grande prudenza nel tentarla, siccome gli pareva che la condotta dell'indiano non avesse altra origine che il più arbitrario capriccio. E veramente era difficile indovinare se egli fosse proprio sano di mente. Peters se ne risalì sul ponte in capo a un'ora circa e non ritornò prima di mezzogiorno, quando portò ad Augustus un bel pezzo di bue salato e del pudding. Rimasti di nuovo soli, io mangiai tutto contento la mia parte, senza neanche preoccuparmi di ripassare di là dal buco. Nessuno si fece più vivo nel castello di Prua per tutto il resto della giornata e a sera mi distesi nella cuccetta di Augustus dove dormii profondamente e saporitamente fin quasi all'alba, allorché il mio compagno, udito movimento sul ponte, mi risvegliò e mi indusse a rientrare in fretta e furia nel mio nascondiglio. Fattosi giorno pieno, constatammo che Tiger aveva riacquistato tutte le sue forze e non dava più sintomi di idrofobia. Beve infatti con grande avidità un poco d'acqua che gli fu porta e nel seguito della giornata finì per dimostrarsi in possesso di tutto il suo vigore e il suo appetito d'un tempo. Perciò non v'era dubbio che la sua strana follia doveva essere stata causata dall'aria cattiva della cala, senza aver nulla in comune con la rabbia canina. E io non sapevo sfogare la mia gioia di essermi ostinato a portarlo via dalla cassa. Eravamo allora al 30 di giugno, al 13° giorno, cioè, da quando si era salpato da Nantucket. Il 2 di luglio ridiscese il secondo, ubriaco come al solito, e però di eccellente umore. Egli si fece accosto ad Augustus e, datogli una pacca sulla schiena, gli chiese se si sarebbe condotto bene per l'avvenire nel caso che, a patto di non mettere mai piede nel quadrato, lo avessero lasciato libero. Naturalmente il mio amico rispose in senso affermativo e il manigoldo lo mise in libertà, non senza prima avergli dato da bere un sorso di una bottiglia di rum che si trasse dalla tasca. Poi condusse Augustus con sé sul ponte e io non rividi il mio compagno prima di 3 ore. Egli tornò allora portando buone notizie, anzitutto che aveva ottenuto il permesso di andare su e giù a proprio piacere per il brigantino sempre dinanzi all'albero di Maestra e in secondo luogo che doveva continuare a coricarsi come al solito nel castello di Prua. Portò pure un ottimo pranzo ed una buona provvista d'acqua. Mi disse quindi che il brigantino era sempre in crociera per incontrarsi con la nave partita dal Capo Verde, la quale, essendoci una vela in vista, si presumeva ormai vicina. Ora, come gli avvenimenti degli 8 giorni che seguirono non hanno molta importanza, né hanno rapporto diretto con quelli capitali della mia narrazione, li riferirò qui, per non ometterli del tutto, sotto forma di diario. Luglio. Augustus mi fornì di 3 coperte con le quali mi combinai un discreto letto nel mio nascondiglio. Nessuno, eccetto il mio compagno, venne giù durante la giornata. Tiger si installò nella cuccetta proprio al lato dell'apertura e dormì pesantemente, come se non si fosse ancora del tutto rimesso dagli effetti del suo male. Verso sera, un vento improvviso colse il brigantino prima che si fosse avuto il tempo di ammainare le vele e per poco non lo fece capovolgere. Ma la raffica passò presto senza produrre alcun danno salvo uno strappo alla piccola vela di gabbia. Per tutto il giorno Dirk Peters trattò Augustus con la massima bontà e lo trascinò in una lunga conversazione intorno all'Oceano Pacifico e alle isole che egli aveva visitato in quei paraggi. Gli chiese se non gli fosse piaciuto intraprendere in compagnia degli ammutinati un viaggio di diletto e di esplorazione fra quelle isole e gli disse che però, disgraziatamente, l'equipaggio cominciava a trovarsi d'accordo con il secondo. A questo Augustus credette bene rispondere che sarebbe stato felicissimo di mettersi in una simile avventura, che del resto non vedeva nulla di meglio da fare e che qualunque cosa era preferibile a una vita di pirateria. La nave segnalata risultò non essere altro che un piccolo brigantino proveniente da Liverpool e fu lasciata passare senza noie. Augustus trascorse la maggior parte del suo tempo sopra coperta per informarsi più che possibile intorno ai propositi degli ammutinati. Costoro avevano avuto di fatti violenti alterchi, nel corso di uno dei quali un certo Jim Bonner, ramponatore, fu scagliato fuori di bordo. Il partito del secondo ebbe così a guadagnare terreno. Jim Bonner apparteneva alla banda del cuoco, della quale era partigiano anche Dirk Peters. Luglio. Sul far dell'alba s'era levato da ovest un vento malandrino che intorno a mezzogiorno rinfrescò quasi in un fortunale, così che la nave fu obbligata a tenere soltanto la vela di senale ed il trinchetto. Nel mentre ammainava la piccola vela di gabbia, Simmons, marinaio semplice, anche lui partigiano del cuoco, cadde in mare. Era ubriaco fradicio ed annegò senza che nulla si tentasse per salvarlo. Così il totale degli uomini a bordo si ridusse a 13, e cioè Dirk Peters, Seymour il cuoco negro, Jones, Greely, Hartman Rogers e William Allen per la fazione che faceva capo al cuoco. Quindi il secondo, di cui non ho mai potuto sapere il nome, Absalom X, Wilson, John Hunt e Richard Parker per la fazione del secondo. Infine, Augustus ed io. 6 luglio. La tempesta durò tutto il giorno, levando pesanti raffiche, accompagnata anche dalla pioggia. Il brigantino imbarcò non poca acqua attraverso le connessure e una delle pompe, alla quale fu obbligato a prestare suo turno lo stesso Augustus, funzionò tutto il tempo. Una grossa nave ci passò da vicino in una foschia tale che la si scorse solo quando fu a portata di voce. Si suppose che fosse quella attesa da tanto e il secondo la chiamò, ma la risposta si perse nel muggire della tempesta. Alle 11 si imbarcò di traverso un bel colpo di mare che portò via una parte della murata di babordo, senza contare altre piccole avarie che ci produsse. In sul mattino sopravvenne calma e a levar del sole non soffiava quasi più. Luglio. Si patì tutto il giorno un mare pesantissimo e il brigantino, carico com'era, fu in preda a un rullio spaventoso, tanto che, io ero in grado di sentirlo dal mio nascondiglio, diversi oggetti si slegarono nella cala. Soffrì parecchio di mal di mare. Quel giorno Peters ebbe una lunga conversazione con Augustus e gli disse che due del suo partito, Greeley e Allen, erano passati a quello del secondo con animo di diventar pirati. Rivolse varie domande ad Augustus che lui non riuscì a comprendere del tutto. A un certo punto della serata le vie d'acqua si erano aggravate di parecchio, né c'era modo di rimediarvi da poiché il brigantino aveva sostenuto troppi sforzi e si apriva in tutte le connessure. Ma poi si sfilacciò una vela e con essa si tamponò la prua, divenendo così in qualche modo a fermare l'affluenza dell'acqua. 8 luglio, una lieve brezza si levò da est insieme al sorgere del sole e il secondo fece puntare a sud-ovest onde raggiungere qualcuna delle Antille e lì mettere in esecuzione i suoi progetti di pirateria. Né Peters né il cuoco gli si opposero, almeno a quanto poté saperne Augustus. Si era comunque definitivamente abbandonata l'idea di catturare la nave partita da Capoverde. A combattere la via d'acqua bastò porre in funzione una pompa ogni tre quarti d'ora. La vela fu poi tolta di sotto prua. Nel corso della giornata si segnalarono due piccole golette. 9 luglio. Bel tempo. Tutti furono occupati a riparare la murata di babordo. Peters si intrattenne di nuovo per un pezzo con Augustus e parlò in maniera più esplicita di quanto non avesse fatto sino allora. Gli disse che nulla al mondo poteva costringerlo a mettersi dal punto di vista del secondo e gli lasciò capire che intendeva strappare il brigantino dalle sue mani. Chiese anzi al mio amico se, nel caso, avrebbe potuto contare su di lui, al che, senza esitazione, Augustus rispose sì. Peters allora gli disse che avrebbe sentito gli altri della sua fazione su tal soggetto e andò via. Per il resto della giornata, Augustus non ebbe più occasione di trovarsi solo con lui.